Volo pindarico numero 6. Come fate a nascondervi da quello che avete scoperto? Orde di morti viventi vi circondano e parlano e sorridono. Per quanto ancora potrete resistere? I cardini della porta scricchiolano pericolosamente. Stanno per entrare ormai. E non preoccupatevi, perché è tutto vero. No means no. It's catching up. Have you heard the news? The dead walk. You hear that sound? You hear that sound? Like fingers scratching underground. You hear that sound? That slamming door. I fought it all my life, but I can't fight it anymore. It's catching up. L'anima guarisce stando con i bambini, diceva Dostoevsky. Siete pronti allora a dare libero sfogo alla fantasia? Nella fiaba che stiamo per vivere andremo a caccia di una rana molto speciale. Basterà toccarla ed ecco che scambieremo il rosso col blu. Le mamme diventeranno papà. E alla fine verremo tutti trasformati in rane che saltellano qua e là per il pianeta. Bene, sarà lo stregone Anthony Gonzalez a guidarci. Ecco a voi M83, raconte-moi une histoire. I heard about this frog. It's a very tiny frog. also very special. You can only find it in the jungle, so far away from here. But if you find it, and if you touch it, your world can change forever. If you touch its skin, you can feel your body changing, and your vision also. Blue becomes red, and red becomes blue. And your mommy suddenly becomes your daddy. And everything looks like a giant cupcake. And you keep laughing and laughing and laugh. Nothing is ever quite the same, really. And after you finish laughing, it's time to turn into a frog yourself. It's very funny to be a frog. You can dive into the water and cross the rivers and the ocean. And you can jump all the time and everywhere. Do you want to play with me? We can be a whole group of friends, a whole group of frogs, jumping into the streets, jumping into the planet. Climbing the buildings, swimming in the lakes and in the bathtubs. We would be hundreds, thousands, millions. The biggest group of friends the world has ever seen. Jumping and laughing forever. It would be great, right? Voli pindarici, voli per viaggi a noleggio. Il facchino ci sollecita, il limite è il cielo, l'orizzonte è ignaro. A voi Husker Du, Chartered Trips. Yeah. horizon is a bonus. Tired of tomorrow, guess I better stay. La sua musica è più che mai sospesa fra bene e male, fra yin e yang, fra bagliori divini e oscurità luciferine. Il suo sense of humor perfido e surreale ha fatto scuola. La sua indagine sulla natura di quell'intervallo effimero e misterioso che sta tra sogno e risveglio ha fatto di Selected Ambient Works 2 una pietra miliare dell'elettronica di tutti i tempi. Ecco a voi un omaggio al genio di Richard David James, in arte Aphex Twin. In sequenza, Beatles, Milkman, Ventolin, Rhubarb, con i suoi sussurri di fantasmi sepolti nell'inconscio, ma subito la sua gemma pop che è Alberto Balsam. Thank you. I wish the milkman would deliver. La glossolalia è una successione di sillabe e suoni casuali, apparentemente priva di senso. È tipica dei bambini, che possono così verificare e consolidare parole, suoni, fonemi imparati recentemente. È poi slancio, libertà, ispirazione, come nel movimento pentecostale del cristianesimo contemporaneo, dove la glossolalia è la manifestazione dello Spirito Santo e l'abbandono totale ad esso. E nella musica rock, la maestra suprema si chiama Lisa Gerrard. Il suo contralto universale annienta tempo e spazio, e richiamando tutte le religioni del mondo, si afferma come una delle voci più alte della world music contemporanea. Allora ecco a voi Lisa Gerrard con i suoi Dead Can Dance. In sequenza, Circumradiant Dawn, Mesmerism, De Profundis, ma subito Sanve Anna, lamento struggente per la lontananza delle persone amate. Oh, Frank lo squartatore di armonie. Vena dissacrante da degno discepolo di Frank Zappa, lui è maestro dell'anarchia atonale, lui è un arrangiatore sopraffino. La sua stella ha continuato a brillare anche dopo la missione Pixies. Ecco a voi Charles Thompson, alias Black Francis, alias Frank Black. In sequenza, Hang On To Your Ego, scalmanata cover dei Beach Boys. Poi Old Black Dawning, Zar, ma subito Fu Manchu. We'll be right back. Catching Up dei Nomins No a Zar di Frank Black, Volo Pindarico numero 6.